cambio. Che avanti, buonasera. Sei piccolissimo, Nicola. Ti ascolto a malapena, Sei il livello QRM oggi. Non puoi fare nulla per farti ascoltare meglio. Cappa, Nicola. Dai, oggi ci sta bene, Nicola. Non c'è freddo, dai. Ma attenzione, Eugenio, ci sei, cambio. Ehi, chi è là? Attenzione, detenuti. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Avanti sul 10. Attenzione, lupo grigio, ci sei? Quanto si può cazzare a te su terra? Lupo grigio. Ti stavo aspettando, quanto ci hai messo? E adesso già ti dicevo bene. Canale 9. No, io non ne faccio. Telegrafia non ne ho mai fatto, quindi non lo so. Ho detto che era meglio. Non so cose che a noi ci interessano più di tanto, perché non ne facciamo telegrafia. Per sapere queste cose bisogna studiare sui libri di radioamatore. No, non c'è problema, non si finisce mai di imparare. E vabbè. Tanto io domani me ne dimentico, non me ne ricordo più. E dove sei andato? Dallo spino. E almeno qualche cosa la fanno, che sono sempre a far nulla, i mobili. Almeno qualche cosa la fate. Vabbè, l'ho fatto anche io oggi, un po' grossa la spesa. No, molta roba non l'ho trovata, non ho trovato arancia, non ho trovato i piedi di pollo a fette, c'era solo i tiri. Insomma, un po' di roba non l'abbiamo presa. Le mele non le ha prese perché erano brutte. Ho mandato mio figlio a farlo. La Conad, sia frutta e verdura che carne, ci hanno tutto prima scelta. Quello lo so. Quindi te la fanno pagare perché è roba di prima scelta. E noi abbiamo un negozio qua al monte, come si chiama? Moscardino, che vende le arance anche a 99 centesimi, ma buone, proprio dolci, belle. Non saranno grandissime, ma sono di quelle sangue, quelle buone, dolci. E il moscardino, quello che c'è su al mondo. E non lo negozio lo stesso quello. E avrà aderito spontaneamente alla chiusura, perché aveva paura, ha chiuso. Ha detto spontaneamente, anche perché io non l'avrei lasciata più di tabacchini. E che cosa te ne fai di tabacchini? Per prenderti le sigarette? Non sono cose necessarie le sigarette. No, qua vengono loro a ritirare i soldi. A me mi lasciano la ricevuta ogni qualvolta vengono, io li do i soldi, mi lasciano la ricevuta. Io ci ho tutte conservate. Quindi ce n'è solo tabacchi che fanno il bonifico. Ce n'è uno dopo il ponte nuovo. Ce n'è un altro via Pietrovica, ce n'è un altro via Pascoli, è pieno. Avanti Natali. Siamo qua, che mia moglie è andata a fare un po' di spesa e l'abbiamo aggiunta a quella che è già, stavo mettendo a posto. Sentite, Eugenio ieri ha detto di farci la spesa perché non stanno facendo imbarcare gli autotrini a Genova. Quindi fra poco rimarremo senza nulla. Vabbè, speriamo che si sbuchi questa situazione, perché è una cosa proprio allucinante, allucinante. Adesso dice che pure a casa Serena c'è stata una che aveva che era contagiata e hanno messo tutti in quarantena sia il personale che i pazienti. Non lo concepisci, ma purtroppo c'è. Bisogna anche adeguarsi alla situazione. È una cosa fuori dal normale perché non l'abbiamo mai vissuta. Adesso c'è bisogno di affrontarla. Allora io ho visto un filmato su internet dove c'erano questi qui tutti seduti nelle panchine e cose, e c'era questo giornalista che ha detto: andate a casa, cosa ci fate qua? E tu perché sei qua? Vattene anche tu a casa. Ho detto: io sto facendo giornalista e devo anche vedere le persone che ci sono in giro per mandarle a casa. Prima vai tu e dopo andiamo lui. E poi c'è anche un'altra cosa, che stanno per arrivare qua in Sardegna dall'America tanti sardi che non si sa se hanno contratto il virus in America, ce lo portano qua, un casino, è un casino nero, bisogna controllare tutti prima di fare partire, se no è un casino, oia. E poi c'è sempre quello che non se ne accorge, che lo contagia e basta. Un prete, sai cosa ha fatto avanti? Il sindaco gli ha detto di chiudere la chiesa, lui l'ha chiusa, sì, però prima ha fatto andare tutti quanti i fedeli, ha chiuso il portone della chiesa e ha detto la messa. E hanno trovato tutte le macchine fuori, quindi li hanno aspettati e in effetti lui ha detto la messa, la porta è chiusa, ma l'ha detto. Attenzione collega, se ascolti il doppio run dalla città di Sassari, cambio. Pochino avanti. K Isola delle Tenerife. 7351, dai, dammi un controllo di Radio Santiago, grazie. Con Abidone. K avanti, se ascolti la città di Tenerife. Te l'ascolto, adelante Tenerife. Stazione Magic Kilo Golf da Sassari, Sardegna. Attenzione collega delle Tenerife, ascolti Alfa 1 dalla Sardegna, quindi senti solo a me da Sassari, città di Sassari, nord Sardegna, KK. La propagazione si sta aprendo, dai, meglio così. Ma tu sei italiano? K, perché l'accento è italiano, non è delle Tenerife, dai. Va bene, mi ha fatto piacere ascoltarti, dai. Se non ho copiato il tuo QRZ, me lo dirai al prossimo passaggio, dai. Il mio è doppio rumo, va. Ma cosa sei, barra pesante? Prova a Natale di nuovo. Attenzione Tenerife, se ascolti la Sardegna Italia, chiamando. La propagazione passata, dai, no. Arriva da formato qua. È per quello che non mi sento. Chissà quanti migliaia arrivati da sotto. A me arriva bene, da 7 a 9. Attenzione Tenerife, hai ascoltato Alfa 1? Io in questo momento sto usando un Magnum 980 con un'antenna diciamo un dipolo verticale, dai. La Game Master, non so se tu la conosci. Hai copiato? KK, ce l'ho anche io il Galaxy Saturnecco. Ce l'ho sempre in stazione, ogni tanto giro, adesso ho messo il Magnum, ma c'ho anche il Galaxy. Bellissimo apparecchio, è stato sempre uno degli apparecchi che mi è piaciuto di più, dai. Andate. Ah, ti ascolto benissimo, che microfono stai usando con quel Galaxy? Io invece col Galaxy uso il Sa Delta Master Plus. Hai copiato? Uso il Sa Delta Master Plus. Sa Delta Master Plus. Boh, ce l'ha detto. Prego. Sì, buonasera Roberto, qua da questa parte, ho sentito Gianni, forse Natalino e l'altro amico che non conosco. Avanti se si presenta. Nicola, Lupo Nicola, Sì, sì, va bene, Lupo Grigio Nicola. Qua Roberto Quadrato, Sassari e Zona Alta, anche io siamo abbastanza vicini, ti ascolto perfettamente. Poi c'è Gianni, doppio rum, buonasera anche a te. Credo Natalino, avanti se sei tu Natalino. Ah vabbè, ben sentito, buonasera, ci sono io. C'erano le Tenerife, Roberto. Addirittura c'è un programmino su computer, adesso l'ho scaricato, una cosa spettacolare, c'è un gruppo da Roma, c'è Roma di DMR si chiama, e lavorano sempre in banda laterale, sono riuscito a fare un collegamento utilizzando il computer e più la linea, vabbè, arrivavano con l'antenna, arrivavano bassissimi, proprio quasi impercettibili, però sono riuscito ad arrivare. E loro stavano parlando con la Spagna, questo è successo avanti ieri. No, ma le Tenerife c'erano poco prima di entrare in, stavo parlando io, sentiva solo a me, solo a me. Attenzione l'amico delle Tenerife, ci sei ancora? Ma poi c'era andata la propagazione, non mi sentiva più. Però arrivava bene, Roberto. Quando c'è propagazione va bene. No, l'amico di Cappuccini, ma lui è, stavi parlando tu del Saturneco, eri tu o c'è qualcun altro? No, era quello delle Tenerife che aveva il Saturneco, era italiano ma viveva da 10 anni nelle Tenerife. Usava un Saturneco con una statica e un amato vaccino. Ah, quello lì, io pensavo fosse qua vicino, erano poi più 10 qua, no, pensavo che fosse quello di adesso, Davide, che ha parlato lui da Cappuccino, ho detto ma strano, l'ascolto io, Cappuccini vi dicevo non l'ascolti tu, no, qua stava arrivando la bomba, pensavo fosse un segnale di Sassari quello che parlava. No, no, arrivava basso qua. Mantova turbo era, non 5, era una Mantova turbo già. E vabbè, e vabbè. Oia, oia. Vabbè, comunque qua arrivava, io arrivavo. Basta, proviamo di nuovo a richiamare. Attenzione, Tenerife se copi la Sardegna, città di Sassari, può essere. No, se n'è andata poi dopo, piano piano la propagazione se n'è andata. Ah, qua è arrivato, perfetto, Santiago 9 più 10, radio 5. Infatti pensavo fosse lui, Davide, questo che è di Cappuccini. Infatti ha detto, ma stanno, l'ascolto io e Gianni non ti sentiva, perché diceva io non ti ascolto, non riesco a capire quello che stai dicendo. Però io l'ascoltavo perfettamente. Guarda che quello di Cappuccini si chiama Nicola, non Davide. Vabbè, scusa, ho sbagliato, ma scusami Nicola, chissà perché mi è venuto in testa Davide, vabbè. No, pensavo che fosse lui, infatti ho detto che stesse parlando da Cappuccini, ho detto, ma strano, dovrebbe arrivare a bomba Gianni, più forte che da me, invece era delle Tenerife quel tipo, è strana molte volte la propagazione, perché diceva che lui c'aveva la Strati che stava ascoltando e tu gli hai detto che c'avevi Sadetta. E lui ha detto non riuscivo a capire, l'hai ripetuto un paio di volte, a quel punto sono entrato io e volevo ripetergli quello che avevi detto. Ehi, ma prima mi sentiva bene, poi piano piano se ne stava andando la propagazione, capito? È andata così, vabbè. Santiago 7 è arrivato, Santiago 7 era 2-5. Già vabbè. Questa antenna schicchia, Facciamo riprendere l'amico Nicola che è nuovo da parte mia, almeno io non l'ho mai sentito. Avanti Nicola. Sì, 7351, io ho un modulo da qualche mese su questa frequenza e non, anche effettivamente non vi ho mai toccato. Ma come 9 più 15, il tuo segnale radio, radio 5 ultima. E dimmi un po', che radio stai utilizzando tu? No, sono mezzo regolare, ho la licenza, pago quello che devo pagare sul chiedo, ma per adesso ho iniziato con il portale, l'ho ripreso dopo una quarantina d'anni, poi adesso vedo un po' di posso mettere una tappa. Ok, no, ti ascolto perfettamente, niente da, da eccepire, ripeto, il segnale molto forte, considerando, ma sei con l'antenna esterna tu? No, negativo, negativo, dunque ho preso un'antenna sempre della Midland, una corretta di 50 cm, soltanto mi ha messo solo nel terrazzo del palazzo dove abito, capito? E quindi vedo benissimo tutta la parte di ottimo, ottimo, ottimo, 9 più 15 sei qua. Ok, avanti chi stava entrando, avanti c'era qualcun altro. Vabbè, invece che mettere l'antenna è salito lui sul tetto. Minumi, attenzione Tenerife, se ascolti il doppio room, la città di Sassari ti super cordializza, avanti, avanti. Vai, vai, vai. Ti passo l'amico Roberto Quadrato, che qua è rotta con noi, avanti Roberto. Sì, salve, buonasera qua, Roberto Sassari, nord della Sardegna, l'isola della Sardegna. Ti ascolto perfettamente, radio 9 più 5, cioè, scusa, segnale 9 più 5, radio 5. Avanti, dammi un controllo anche tu, se ti viene bene. Come a me arrivo? Oh, 9 e 15 questo passaggio, l'amico, non ho capito il nome, scusa, di Tenerife, com'è il tuo nominativo? Ok, ottimo segnale, 9 più 15 questo passaggio, ma sei in condizione molto alto di trasmissione, una posizione molto in alto o è solo dovuto alla propagazione? E vatti, quanto ne stai usando, se non sono indiscreto? Oh Alex, io sto uscendo con 10 watt in macchina. No, segnale tuo Alex, considerando che sei così lontano, è 9 più 15, è un segnale locale come intensità, fortissimo a livello qua di moltissime persone, se lo sognano quel segnalino. Ok, ti rilascio il mic. Dai, ti salutiamo amico Alex, dai, buona serata, dai, qua siamo in ruota e continuiamo con il nostro giro. Buona serata, grazie per il QSO, avanti Natalina. È la Mantova 5, se ne sta ridendo sopra 12 metri di palo a casa, dimmi tu. Diciamo è un peccato, cazzo, le piazzate non le mai trattate, ci butti. Vai, buon pomeriggio. Ah, Luca Pugioni, cosa vuoi? Dica anche il numero di telefono. Vai, buon pomeriggio. Luca. Vai, mangiati un rovino di mambo. Luca, perché sei così basso? Chiaro, bene, se spegniamo solo a casa. Ah, infatti mi stavo preoccupando, dai, comunque di nuovo normalmente arrivavi 9:20, infatti ho detto strano che sia più basso del normale, comunque ti ascolto perfettamente. Facciamo rientrare Nicola, l'altro amico di Cappuccini, vediamo un po'. Sì, sono io, sono un po' appuntiato alla gentilezza che sto parlando un attimo altrimenti e sentiamo dopo, grazie. Natale, tu l'ascoltavi Alex da Tenerife, qualche dubbio ce l'ho io. No, già l'ascoltavo, però qua non arrivava il segnale che arriva a voi, perché io ho l'antenna bassa, capito? Se mi arrivava almeno 9 mi doveva sentire pure a me non mi sentiva, io sentivo a lui, ma lui non sentiva a me. Ormai parlava perfettamente l'italiano, qualche dubbio, sinceramente, un segnale troppo forte era, sembrava più camionista a me, mi dava più l'idea. Italiano non è tenerife, però è italiano. Va bene, dai, ci crediamo, dai. Breco 10. Avanti sul 10. Ciao, buonasera a tutti, Gianni Rubrofetta qua da Centro Storico Basso. E allora, cosa si dice? Ciao Gianni, ben sentito, Roberto da questa parte, c'è Natalino, Gianni Doppio Room, Nicola, per un attimo c'è stato un collegamento internazionale con le Tenerife, e basta, avanti, io sono entrato da qualche minuto e basta, riprenditi il mic Gianni, io ti chiamo Vanni che è più comodo, e prendi tutto tu il mic. Andavex, buonasera a tutta la ruota, buonasera, rieccoci qua, anche stasera, bene meda, allora, per Roberto, sto utilizzando il mic originale di questa radio, del Jopix 2000, che è un microfono dinamico. Mi dai un tuo rapportino? No, ottimo, va benissimo la radio. Posso darti qualche informazione più precisa? Comunque, a orecchio stai andando alla grande, perfetta, comprensibile, la compressione, il segnale ottimo, quasi 9 più 20, radio 5, ottima. Ok, avanti Natalino e poi farai girare. Ciao Gianni, buonasera. Ma mi senti tu a me? Perché mi sta arrivando basso, ragazzi. Ma dici a me Natalino. Qua tu sei abbondantemente sopra il 9, ti sento forte e chiaro. Perché qua mi sta arrivando solo fondo scala, cosa vuoi dire? Ciao profeta. Ciao Gianni, buonasera. Mi è sembrato di aver sentito anche Luca. Qua sei arrivi proprio forte. Invece tu sei basso, solo fondo scala, ma arrivi. Vabbè, lì all'aria saranno, 400 metri. Va bene, avanti già. Pappagappa, io avevo l'impressione che fossi di fronte a Natalino, invece no. Io sono alla stazione. Natalino, che io sappia, ha detto che è in corso Trinità, quindi cioè siamo in linea d'aria, siamo vicinissimi. Guarda, è ballato in due comunque. Quello è, magari c'è tutta attacca l'antenna verso di lui. Boh, probabile. Ehi, roba, riprenditela là e poi fai girare. Ehi, ho detto che avete parlato in due, Gianni e Vanni. Avete parlato in due e non si è capito quasi niente, vi siete sovramodulati a vicenda, anche se Gianni usciva un po' più forte. Dai. Ok, una domanda interrogativa, se vuoi dirlo. Come mai questo nominio, Rubroffetta? Qua a me è una storia un po' lunga, comunque come non è, cioè è nato come nascono più o meno tutti i soprannomi, a causa di amici durante, sai, e stiamo parlando del fine anni 80, primi anni 90, quindi me lo porto appresso da un po' di tempo, dai. Infatti, perché io ti conoscevo di persona, di persona, mi pare che l'avevo già detto, e lo stesso nome l'hai portato qua in frequenza. Claro che sì, cioè, c'ho quello, invece di usare tanti nick, tanti altri, insomma, nomignoli, ho preferito usare questo qua, che insomma, è più semplice, dai. No, non sto criticando assolutamente. Il mio soprannome, chiamiamolo, quello di frequenza, me l'aveva dato Luca del Monte, noi lo chiamiamo perché c'era anche Luca Flipper, e perché c'era anche un altro Roberto, per non confondere, io ero zona quadrata, la dici tu, Roberto Quadrato da oggi, sì. Finisce, è così che escono, saltano a pizzo i soprannomi, quindi siamo lì, eravamo la stessa cosa più o meno. Non è saltato fuori in frequenza, ma in altri contesti, dai. Avanti Luca, se ci sei. Luca, entra, vai in casa di Sinani. Vai! No, zona alta, zona stadio, diciamo, dai, più o meno lì. Ottimo, dai, va benissimo. Natalino Alfa 1 invece da cosa è nata? Perché c'avevo l'Alfa Romeo. Ah, così, no, l'Alfa Sud, no? Ho avuto tante Alfa Romeo, capito? Allora, siccome Alfa Romeo come nominativo c'era già, mi ha messo Alfa 1. E rumo per i giornali di coso, di Capitano di Black, cos'era? Capitano Mickey già? No, il mio è nato, avevamo un compagno di scuola che aveva le gambe arcuate, perché giocava a pallone, e lo chiamavano Dupio Rumo, il soprannome, e da lì mi è piaciuto e allora mi sono messo quello, ma non è adesso, lui 40 anni fa. Già lo so, già me l'avevi raccontato più o meno la storia, nel senso non del mio attivo, che moduli da tantissimi anni, sono uno dei più anziani qua in frequenza sicuramente, ok, no, io ci sono da pochi anni, ho iniziato dal 2004 assiduamente e poi piano piano mi sono allontanato, poi un po' riavvicinato, adesso in questi giorni che c'è questo problemino c'è più tempo libero, per cui la radio è sempre unica e ci farà sempre compagnia finché vivremo, dai, avanti chi tocca. Vanni Rubroffetta. Eia, bene, mi sono dimenticato di salutare Nicola, ben sentito, buonasera, e niente, dai, siamo qua, come stava dicendo Roberto, il salottino, come lo chiama Giulio Dollaro, adesso se entra Giulio magari ci racconta un po' la storia del suo nominativo, dai, avanti Nicola, buonasera. Buonasera. Comunque ciò che stavo io per quanto mi riguarda è il terra più che adesso che si mette una pietra d'aria e un ombre fuori. Dai, oggi era una bella giornata, quindi sono salito un attimino in terrazzo a controllare l'antenna e insomma era piacevole, dai. Poi alle 18 le palazze di litro che cantano e fanno le più. Lasciali fare Nico, lasciali fare. Lasciali fare così almeno sbolognano un po' di stress e di ansia, dai. Va bene, avanti Natalino. Hai un lupo grigio, se ti metti da l'antenna esterna te lo regalo io un apparato, dai. va anche in SSB e c'è un casino di canali. Sì, un presidente Lincoln ti regalo, tanto io non me ne faccio nulla. Ringrazio, ringrazio. Adesso ti tengo il mio contattivo, anche perché... Che ho chiuso! Ma con il contattivo non ti voglio mai dire che fai. Tu non sei sardo, c'è un accento leggermente diverso dal nostro, ho l'impressione mia. Siciliano, Palermo, Palermo, apparteneva al Ministero degli Interni, anche al Ministero della Difesa. Lo sai, ci ho pensato benissimo, infatti non volevo dire, però pensavo a qualcosa del genere, dai. Ok, ti sei trapiantato qua in Sardegna. Da 30 anni. Quindi sei diventato dei nostri, dai, ti daremo le chiavi della città, vuol dire. Ok, avanti doppio rum e poi farà girare a Vanni il profeta. Ma la voglio d'oro la chiave però. D'oro? Beh sì. Vanni, vai tu perché Gianni doppio rum si è perso in Libia. Bene mera. Aspetta, Natalino c'ha un presidente Lincoln. Aspetta. Funzionate, Natali? C'ho quello, un altro 120 canali che non mi ricordo che marca è, che vanno in SSB, tutti e due, ma non li posso usare io, capito? E allora me ne devo disfare per forza. Natali? Allora, io non ero morto in Libia, ma mi stavo facendo l'iniezione, non vi ho potuto rispondere. Sì, lo sapevo, immaginavo. No, stavo dicendo, Natalie, quando muore Trump fanno il coso, il Trump, la versione Trump del coso, del, come si chiama, adesso mi viene il nome. Presidente. Il presidente Trump fanno, poi ci sarà il presidente Obama, visto che hanno fatto tutti i presidenti, Harris, ce ne hanno fatto una decina di questi presidenti, Lincoln, Roosevelt, Lincoln è bello. Si può regolare la potenza, giusto, c'ho un altro 120 canali, ma non sono qua, no, perché non ne posso tenere, capito? Mi dico che non trovino niente qua quando vengono a controllare. da me l'antenna TV. E adesso se lui mi denuncia, vengono e mi controllano, perché mi hanno già controllato un'altra volta e non voglio incorrere in sanzioni né niente, quindi non tengo niente qua. Meglio stare tranquilli e sereni, dai, è giusto così. Va bene, cosa dobbiamo dire? Luca Del Monte, vediamo se c'è ancora, se è rientrato, se no farà girare per Nicola, che deve rimanere ancora un pochettino, adesso poi va via. Luca Del Monte, ci sei, batti un colpo. Avanti l'amico Nicola. Sì, grazie. Quindi come ripetevo un po' molto prima, neanche nel sentimento del mio funziona, per portato il vino alla pena di coppia l'amico da sopra la zona mia, ma quindi penso che lui è così un funziona, ho una bella vista e sono soddisfatto. Quindi tu sei praticamente zona alta, zona Carbonati, giusto? Diciamo più o meno, diciamo dove c'eri, dove stavi tu, credo la caserma più o meno, penso, mi immagino stavi con la caserma lì tu. Sì, si conferma, si conferma, quindi, ma ti sento benissimo, guarda, lo sai. Vabbè, diciamo siamo abbastanza vicini, il problema è che le antenne si vedono, dai, non c'è problema. Ok, e qui vado a andare via, eventualmente dillo tu se c'è troppo freddo, avvisa così ti diamo la possibilità di salutare. Avanti Vanni Rubroffetta. Ehi. Stavo per dire una cosa, cazzo, ultimamente la memoria breve sta perdendo colpi. Vabbè, forse perché mi stavo concentrando su un'altra cosa. Cosa volevo dire? Adesso, poco fa, sì, sicuramente ci conosciamo, adesso stavo pensando al fatto che io da voi ho verniciato un vecchio Kawasaki, non so se l'avevi fatto personalmente tu o chi, che avevamo fatto Celeste Mimetico, ti ricordi? Assolutamente, per quello che ti conosco, tu sei amico di mio cugino Franco Contini, te lo ricordi? Sì, sono una vita che non lo vedo, mi piacerebbe riabbracciarlo di nuovo, adesso non so, tempo fa sapevo che si era trasferito a Olbia. Sì, sposato e risposato e con figlia a carico giù a Olbia dove lavora l'attuale moglie, diciamo, ha iniziato a lavorare lì e poi piano piano si è sposato. Poi conosci anche Dani Rossini sicuramente, mi immagino. Positivo, sì, quel periodo lo ricordo veramente con tanto piacere, visto che eravamo una bella greffetta di motociclisti con delle moto bellissime. È stato un bel momento, dai, a livello motociclistico. C'era una bella greffetta e tutti, ognuno a modo suo, aveva delle moto spettacolari. Mi ricordi, vabbè, dai, se no mi viene il malone, ti rilascio il mic, dai, vai. Io non voglio monopolizzare, però diciamo gli amici tuoi molti li ho conosciuti perché sono capitati qua da noi a fare qualche lavoretto, comprese te che c'avevi quel Kawasaki tutto mimetizzato, me lo ricordo, non l'ho verniciato personalmente, però il nostro dipendente l'ha fatto, è stato curato dal nostro dipendente, dal verniciatore. Ok, l'ultima domanda, la moto naturalmente non ce l'hai più, mi immagino, ce l'hai ancora? No, negativo, l'ho venduta qualche anno fa ad un amico, da Mimetica, poi l'avevo fatta verde Kawasaki con la fascia bianca, ricordando le vecchie moto anni 70. Non ti sto a dire chi è, però il lavoro che mi è stato fatto era veramente di una qualità non scarsa, di più, cioè ho pagato un botto di soldi e mi hanno fatto un travaglio che veramente non volevo aver visto. Sorvoliamolo, lasciamo perdere, là. E dopo è rimasta un po' ferma, dopodiché l'ho venduta ad un amico, l'ha smontata, l'ha rimessa in sesto, l'ha usata un po' e poi ho visto, mi ha detto che l'ha venduta, e niente, quindi sono contento che non è finita al demolitore e che stia ancora girando, dai. E niente, dai, ti rilascio il mic. Sì, ok, dai, stiamo monopolizzando, avanti Gianni doppio rubo per Natalino, poi Nicola e vediamo un po' se c'è ancora o se deve andare via, così non lo tratteniamo per il freddo che sicuramente la temperatura si è abbassata. Avanti Gianni. Sì, invece io, guarda, ti dico la verità, ogni volta che sento qualche incidente, qualche cosa di moto, ringrazio che me l'ho venduta, perché da quando ho avuto un amico che è morto, buono. Non sono riuscito più a stare tranquillo. Avanti la tal- posso un attimo io? Prego. Ora io vi saluto perché veramente ringrazio tutti gli amici per queste ore, a risentirci che va bene domani. Sì, ok, ben sentito da parte mia Nicola, un piacere, dai, la, per la prima volta speriamo di risentirci quanto prima. Avanti Natalino che farà girare a tutti gli altri, dai Natalino. Ciao Nico, alle prossime allora, riprendi già. Hey, ciao Nico, grazie per la compagnia, ci sentiamo, dai, mi dispiace che te ne saranno presto, se vuoi riprendere magari dal terrazzo di casa, riprendi da lì, dai, vediamo un po' se riusciamo a tirarti fuori. Detto questo tocca a Gianni, avanti. Eccomi, ciao Nicola, buona serata e ci sentiamo quanto prima, ok? E niente, boh, adesso non so chi c'è in ruota, rilancio Roberto, va. Ok, adesso faccio una chiamata generale, visto che stavamo parlando in quattro soltanto, se ci fosse qualcuno sul 10, avanti, questo è il canale 10, se vuoi fare qualcuno, avanti con la buonasera. Un attimo di bianco, lasciamo e vediamo un po'. Non c'è nessuno, riprenditela tu Gianni. E quindi avete fatto DS con le Tenerife, giusto? Un po' di bianco tra un passaggio e l'altro. E si va bene, anche io già sono troppo veloce, la verità, mi hanno riprovato anche ieri che sono troppo veloce, che sono dito veloce, adesso cerco di rallentarlo. Molte volte quando ci sono argomenti interessanti, piace che uno magari non se ne accorge, sta sempre rilanciando, parlando e si dimentica degli altri, è meglio molte volte evitare, visto che non siamo più di tanti adesso, in questi momenti, e diciamo facciamo la possibilità di, se qualcuno gli viene la voglia di rientrare, di parlare anche in questo caso. Avanti di nuovo Vanni e poi Natalino. Io ho sentito qualcuno che ti ha sovramodulato, boh, magari sicuramente magari sarà Luca, boh, non lo so, comunque concordo e sottoscrivo. Stavo dicendo, avete fatto un DX con le Tenerife? Bene, Meda, mi sarebbe piaciuto partecipare, beh, sono arrivato troppo tardi, alla prossima. Avanti Natalino. Quando arriva l'estate chissà quanto ne farà il DX. No Natalino, li ho già fatti, quand'è? L'estate scorsa, primavera estate scorsa, ho parlato con l'Inghilterra, ho parlato con la Spagna, con l'altra Italia, dai, Piemonte, Lombardia e anche Veneto, quindi mi sono tolto qualche soddisfazione, dai. Peccato che non ho messo l'alza bandiera, se non me ne avrei piazzato uno di solo, perché questa antenna è un po' così, troppo bassa. Comunque Gianni, voilà. Secondo me, io non voglio essere diffidente, secondo me non c'entra niente Tenerife, questo era uno che ha provato a fare simpatico, perché se non era troppo forte già, sembrava un suonare locale di qualche camionista, non c'era propagazione oggi, ho guardato, ho girato, non vedo segnali di propagazione, cioè è possibile che solo lui si senta delle Tenerife, non se ne sentono altri, nessuno lo sovramoduli, io dubito tantissimo. Allora, io non dubito perché ho sentito la propagazione che se ne andava, spariva, poi ritornava, quindi non ho nessun dubbio. Poi il fatto che a me mi sentivano, sentiva gli altri, eccetera, eccetera, non era un bidone. Comunque anche se lo era non mi dà fatti nulla. Lui è contento così e lo facciamo contento. Comunque non era un bidone perché io ho sentito la propagazione che se ne andava, usciva più basso, poi un po' più alto, e poi se ne andava completamente. Era tranquillo che era da fuori. Sì, però quello che voglio dire, secondo me era in movimento, sicuramente era in movimento, però quando c'è propagazione tu senti anche altre persone parlando, non senti solo a lui, io sentivo solo a lui, tutto il resto era muto, è quello che mi fa dubitare, sembrava un camionista dentro una vettura, qualcosa in movimento, e magari in certi punti arrivava un po' più forte, in altri punti un po' più debole, per cui dubito detto secondo me che era un segnale che arrivasse direttamente dalle Tenerife, perché quando c'è propagazione non sai quanti sovrapposizioni di segnali ci sono già. Poi tu mi dici cambiava, saliva, quello pienamente d'accordo, poi è arrivato sempre 9 più 10 e anche 9 più 15, infatti sembra un po' strano. No, sono arrivati anche 9 più 30 qua a casa, fatti un conto. A casa sono arrivati anche 9 più 20, 9 più 30, immaginati, già lo sai, già l'hai vista la propagazione come. E secondo come va, capito? Magari c'è la propagazione per la zona sua e per gli altri non c'era, cosa vuol dire? Succede anche qua, magari li senti e non riesci a parlarci. Per loro c'è la propagazione e per lui no. Sì, no, è capitato sicuramente, a me è capitato di fare un collegamento intercontinentale spaventoso, sono stato più di un'ora parlando, però questo c'aveva 3 kW, in direttiva era in un faro in Patagonia, mi è capitato diversi anni fa di notte tardi, nella parte inferiore dell'America meridionale, proprio nella bassa, mi ha detto tutte le posizioni, era un farista questo, c'aveva una direttiva, chissà perché siamo stati più di un'ora parlando, io sentivo solo a lui e lui non ascoltava nessun altro. Vabbè, ma quando c'è l'antenna direttiva è come se fosse sotto casa tua, capito? Quello è un verticale, cale. Vabbè, comunque io lo sentivo, gli ho risposto, se poi non mi dono e non mi ha fatti nulla. Avanti, Natali. Quel poppo d'antenna attinge, te l'ho detto che fa quanti lì e che farai, perché pensavo figlio, invece già pompa da. La pompa perché è un dipolo, capito? È un dipolo omnidirezionale, poi è quello che c'è. Vabbè, tu la conosci la Game Master? Di nome, ma non l'ho mai utilizzata. No, ma diciamo per l'uso ne facciamo noi, le migliori sono queste qui, queste verticali, a meno che non metti una direttiva di un certo livello, ma stiamo parlando di altre cose. Però per l'uso che ne facciamo noi, la verticale, la Matova, quelle lì con la linea lì, oltre che la Matova, le similari vanno più che bene. La mia è verticale, è un dipolo verticale, capito? È un filo racchiuso dentro dei tubi. Non so se sia plessiglass o cosa sia, è una plastica, poi non so cosa sia esattamente, non è vetroresina, sono abbastanza robusti, sopporta 160 km orari di vento. Quanto è alta? Cos'è? Una 5 ottavi? Certo, una 5 ottavi. Quanti metri è? Quindi sarà sui 7 metri. Vabbè, la 5 ottavi è così. No, vabbè, può essere anche raccolta, come si chiama, e non è detto che sia di quelle lunghezze. Ma io 5 ottavi sempre di quella lunghezza lì ho visto. Vabbè, comunque è un'antenna che va bene, non c'ha radiali, così le cornacchie se la prendono in l'occhio, perché a me mi rompevano sempre i radiali le cornacchie, gli ho messo anche la lenza per grunghi, per tenervi i radiali, beh, sono riusciti a romperli anche con la lenza. Già ne ho sentito altre aziende, grazie a Dio, io ce l'ho, c'avevo una quindicina d'anni l'antenna, la Mantova 1, non ne ho visto ballandoci sopra, ma proprio in cima avevo l'antenna, ma ho detto mamma mia, questa mi era la tronca, no, grazie a Dio, sta durando, speriamo bene. Poi stavo parlando di propagazione, l'avete messa l'applicazione con la CB Talk della Midland? Io me ne sono anche stufato, c'è gente stronza, per carità. L'altro giorno ho fatto una battuta, c'è nessuno in questo canile. Brutto, maleducato, caffone che non sei altro, quando imparerà l'educazione ti faremo entrare. Ah, te ne vai, che era una battuta, che scemo. Ma guarda, se ti vuoi divertire, io ho fatto, a parte c'hai ragione, ci sono un sacco di persone poco comprensibile, diciamo, dell'ironia della cosa, a parte qualcuno mi è capitato, io ho parlato con Salvatore Maestrale, qualcuno in gamma, ma c'è tanta di quella gentaglia, non per criticare, proprio l'ambiente non piace, però se ti vuoi fare collegamenti internazionali con gli Stati Uniti e così, ho fatto i collegamenti con la Spagna, bellissimo, perfetto. Già lo so, l'ho usato qualche volta, quando ero in ospedale, non sapevo cosa fare, avevo messo questo GP Talk, poi mi ha deluso questo qua, che me l'ha detto tutti i colori, maleducato a me, ma sei tu maleducato, io l'educazione la conosco, ho solo fatto la battuta e poi pensavo non ci fosse nessuno perché non c'era nessuno che stava parlando, e invece c'era gente, capito, ed ascolta, e mi ha risposto così, quindi ascoltare e basta, perché tanto non ne valeva la pena di stare a zuffarsi all'ospedale, non ne voleva fare un cavolo, e voglia solo, a volte accendevo il telefono, non voglia manco di ascoltare, di guardare Facebook, niente, è proprio una apatia generale. Ok, facciamo rigirare, riprendi Vanni e poi Natalino, e poi vi lasciamo un attimo in bianco e vediamo se c'è qualcuno. Caparrosmetro, ho pubblicato con le ieri avantieri la foto dell'apparato acceso e mi ha scritto un mio amico di Sassari che lavora sulle navi da crociera, sulla costa crociere, e non a caso lavora nel reparto trasmissioni. Mi voleva le coordinate per agito, guarda che con questa radio non va da nessuna parte. In questo momento mi sembra che si trovino in zona Messico, no non Messico, o Brasile o insomma a largo di quella zona lì, agito qua, con la radio che c'è io non vado da nessuna parte. Vabbè, quelle sono radio amatoriali. Avanti Roberto. Sì, vabbè, diciamo utilizzano anche altri sistemi di comunicazione, diciamo anche i satelliti, non utilizzano le onde normali, diciamo, su frequenze satellitari, diciamo, eccetera. Io ce l'ho un telefono satellitare, me l'ha regalato un amico, l'aveva comprato tantissimi anni fa in Canada, questo lavorava sulle navi, lo stesso, sulle mocchiature o cose del genere, e in Canada l'aveva comprato dalla Telecom, cioè aveva la scheda della Telecom, c'è ancora la scheda della Telecom che utilizzava il satellite, però costa un esorbitato, costa dentro una valigetta, quelli che usavano tipo agenti segreti. KK, no Daniele, vabbè, l'ho visto mesi fa che era in ferie, no, mi ha detto che praticamente sono attrezzati, hanno diversi tipi di apparati per diverse esigenze, hanno tutta una serie di sistemi di telecomunicazioni, immaginati tu cosa tutto c'hanno in sala radio, mi ha detto che c'era solo da uscire in testa, figurati su una nave del genere, mi ha detto che la sala radio è spaventosa, e niente, ma mi ha fatto ridere quando gli ho detto che c'avevo questa radio qua, infatti ha capito e si è voluto arrivare di Buruetto. Va bene, dai, avanti Natali. Sì, per forza, c'hanno anche le HS loro, vanno molto in basso quelli della macchina, c'hanno gli spuri, c'hanno tutto, sì, non gli manca niente a quelli. L'HF Marino usa, no? Sì, ma per le corte distanze, poi c'hanno anche le HF loro, vanno molto sotto. Oh, bene, tu ce l'hai quel programma che prende tutte le radio, tu che sei appassionato di queste cose, quell'app che prende tutte le radio. Sì, ne ho installato un paio, allora ti ripeto, l'ho detto anche prima, c'è questo solo per i CB, bellissimo, DMR Roma 4 si chiama, c'è Roma 1 e Roma 4, bellissimo, belle conversazioni, e lo stavo ascoltando avanti ieri, ho fatto anche un collegamento, stavano parlando con la Spagna, non mi ricordo con chi, forse Valencia, in banda laterale, perché di lì a Roma utilizzano tutti la banda laterale, chissà perché, erano radioamatori tra l'altro questi, c'erano molti radioamatori, infatti ti appare anche il nominativo di, erano 27.155 la frequenza e USB stavano trasmettendo, e poi c'è quel programma che utilizzi come una stazione remota, prendi tutte le radio di tutte le bande dai 160 metri fino ad arrivare ai 10 metri, non lo so, 11 metri, non mi ricordo quanto arriva, è un decoder remoto dall'Olanda arriva, bellissimo, ci sono tutte le informazioni, e dopodiché c'è un altro programma che c'è il mondo, ci clicchi sopra, ci sono le radio FM di tutto il mondo, quello è bellino lo stesso, se vuoi ascoltarti qualche radio che magari è piacere di sentire, vedi una radio degli Stati Uniti o di qualunque parte del mondo, ci clicchi sopra, c'è la pallina verde, quello è bellino, quello me l'ha mandato Giulio, l'avevo già visto, però non c'ero mai entrato, però la cosa più bella è quel ricevitore remoto che ti appare l'analizzatore di spettro, tutto il monitor delle frequenze, poi fare qualunque modifica al segnale, quello che vuoi, ascolti tutto il mondo con una stazione remota che è in Olanda, bellissimo. Ora vai col computer, sai quante apparecchiature ti puoi eliminare da casa, fai di tutto canto. Sì, ma tu devi vedere cosa fa questo ricevitore remoto, è una cosa spaventosa, cioè ci sono quelle pennine CDL, non so, le viste che le attacchi al computer, ma questo è bellissimo perché non hai bisogno di antenna né niente, si connette a questo ricevitore remoto, che c'è come quando ti guardi il televideo tu o l'immagine così, che ti colleghi e ti guardi le pagine, e qua è la stessa cosa, ti scegli la frequenza, imposti i passi di frequenza, larga, stretta, tutti i tipi di emissione, poi ti appare i formati della modulazione. È una cosa spettacolare, bellissima, infatti ormai il futuro è il digitale, però a me le radio analogiche forse ci avrò un corso, mi piacciono di più, infatti anche il ricevitore uso l'ICR7000 che voglio ascoltare, ne ho acquistato uno, una bomba già, mi ha dato un amico radioamatore di dove? Zona di Cagliari, no scusa, lui è Cagliaritano, quello di Nuoro, un Recall americano, non l'americano, tedesco è questo, è una bestia, è 4 volte, più del doppio del 140. È uno strumento da laboratorio, fa da 0 a 30 e poi 88-108 con tutti i filtri, c'ha una ricezione già, una cosa mai vista. Io con l'ICR7000 c'è una radio che ascolto dalla Corsica, un canale su 93, c'è una radio che l'ascolto solo qua, non la puoi ascoltare da altre parti, ma che non ti metti vicino alla costa, Santa Teresa e cose del genere. Con l'ICOM riesco, mettendo gli attenuatori e tutti i filtri, appena appena a prenderla, quello lì a fondo scala arriva, è una bomba, c'ha una ricezione spettacolare. Però stiamo parlando di un apparato professionale, cioè da laboratorio, c'è una ricezione, già ho provato in banda da 0 a 30, in banda cittadina, una cosa mai vista. Deve essere uno spettacolo da vedere, anche come estetica dovrebbe essere un bel bello. Già quando sono così già sono belli, a me piacciono, no, quelli portatili, a me piacciono così, ma non è digitale, adesso c'è poco da ascoltare, se un apparecchio non è digitale ascolti molto poco. Ah, ma questo c'ha tutte le funzioni, c'ha una serie di attenuatori, di filtri, oscilloscopi per attaccare, una marea di cose, ci sono delle funzioni per dire che neanche conosco delle cose, c'ha uno strumento grande, indicatore, microvolt, proprio ti dà il segnale effettivo, non in banda S, i segnali S come i baracchini, questo è proprio tarato in microvolt, e poi c'ha uno strumento digitale dove c'è la frequenza in digitale, c'è un monopolone, quelli che hanno una specie di levetta esterna, ti ricordi quelli antichi, oltre al monopolone c'hanno quel coso che ne esce fuori, che lo giri tipo un argano. Sì, ce l'ho presente. Sarebbe bello vederlo, mandami una fotografia. Ehi, adesso lo manda. Ma peserà 25 kg, stiamo parlando di un apparecchio tutto pesante in ferro, non è plastica. Se lo cerchi su internet, vabbè, non è che è facile da trovare. HM265, strumento di misura, ricevitore, MFM, tutto tedesco è scritto qui. C'è un sacco di malassurti, di roba da attaccare, di oscillatori interni, perché è uno strumento che puoi usare per tarare gli apparati, per dire se devi fare delle tarature, cose del genere, c'ha gli oscillatori dentro, è stereo poi tra l'altro, c'ha l'indicatore stereo di ricezione, ma c'ha una qualità di suono, questo probabilmente secondo me lo usavano anche come quando vanno a fare qualche ponte ripetitore di qualche stazione grossa, broadcasting, cose del genere, lo utilizzavano per ripetere i segnali perché c'ha una marea di funzioni. Con tutti gli attenuatori, c'ha 4 attenuatori da 10, 30, 20, 30 e 40 dB, e più c'ha un amplificatore d'antenna di 10 dB, che è una cosa spettacolare. Roma tedesca, chiaro grigio. Io avevo l'ICR7000. Guarda, non per vantare, il CR7000 è un ottimo ricevitore, io ho la R3000 ed è un giocattolo, come un confronto, che un bel di gente c'è la R3000, una bomba, è un giocattolo confronto all'ICR7000, un bellissimo apparato, niente da dire, però questo li fa 10 a 0. Ti ripeto, quello lì senza filtri, cioè senza amplificatore di antenna, è segnale nitido, l'ICR7000 devo mettere attenuatori per togliere i disturbi dalle altre frequenze, se no non riesco a togliarlo fuori il segnale, ma c'ha una selettività spaventosa, cioè le stazioni che sono attaccate proprio che ti disturbano in altri ricevitori, una selettività da paura, e poi è stabile come frequenza, selettivo, c'ha tutto, cioè non li posso dire, è un apparecchio, secondo me ci avrà non meno di 30 anni questo apparecchio. Roma tedesca, capito, roba buona. Comunque l'ICR7000 è un bellissimo ricevitore, ce l'ho avuto io, ce l'ho mezzo regalato a un amico, capito? aspettate un attimo, sento qualcuno chiamare. Avanti, chi chiama? Boh, non si capisce niente, lontanissimo, vabbè, lasciamo perdere, probabilmente propagazione. Ok, no, questo è tipo di quella serie Rode Schwartz che fanno strumenti da laboratorio. Sto dicendo è di larghezza, è più di due volte le 140 o 440, ed è molto più alto. Poi di profondità non ne parliamo. Sarà sicuramente un bellissimo apparato. Roba di quelle lì non ne fanno più. Roba tedesca è roba come si deve, sono fatti. Sì, ma io l'ho anche aperto dentro per vedere come è fatto, tu devi vedere tutte le schermature, ci sono tutte le schede schermate, è una cosa, cioè quando vedi, ti dai mai visto tu quando apri un apparato di laboratorio o roba militare, che sono tutti chiusi dentro le scatole, ogni sezione è dentro le scatole con tutti i filtri, c'è un'epoca di roba, cioè un apparecchio del genere per me non costerebbe meno di 15.000 euro paragonato a un apparecchio di questi HF, perché se tu vedi cosa c'è dentro, cioè io parlo costruendolo adesso, non costerebbe meno di 15.000 euro era un apparecchio del genere. No, certo che quelli no, non ne fanno più così, adesso li fanno tutti e poi adesso è entrato il digitale e sarà un macello ascoltare, perché non con quelli analogici non ascolti niente, sono partiti tutti via col digitale, non ascolti più nulla. In HF ascolti e boh, finché non se ne vanno in digitale anche loro. Lo so, ma adesso ho acquistato qualche mese fa, diciamo verso novembre, ho acquistato una radio DAB, non so se sapete, quella digitale che ormai supererà la FM normale, tra qualche tempo non ci sarà più la FM in macchina, ascolteremo i DAB, il digital radio. È obbligatorio già dal 2019, tutte le macchine devono essere dotate dalla casa di radio DAB digitali, per coso. Qua sta però ancora, sino a, diciamo 15-20 giorni fa, ancora non c'è il DAB, a Cagliari è già attivo, perché bellissimo perché c'è un display in cui ti appare la stazione, la canzone che stai ascoltando, come si chiama, oltre la canzone ti appare per dire se c'è un disco, un video, qualcosa che ricorda la stazione, la canzone ti appare la copertina del disco o del CD, è veramente bella, a colori questa. L'avevo preso qualche mese fa, però ancora non ho avuto modo di ascoltarlo in digitale perché non ci sono ancora qua le radio digitali, almeno sino a un mesetto fa che l'ho ascoltata a Sassa, dice che la RAI sta partendo, la RAI e tutte le reti nazionali stanno partendo, però a Sassari in città ancora non c'è. Avanti, facciamo girare a Vanni e poi a Gianni che stiamo monopolizzando, avanti. Ehi. No, riguardo al break io non ho sentito nessuno, sento solo QRM e basta, ma insomma c'è anche un po' di QRM, già c'è. Eugenio stasera ha dato buca, dice che se ce l'avrebbe fatto sentire, stamattina eravamo da presto, e niente, dai, vuol dire che è impegnato sicuramente a fare cose più importanti. Stavo ascoltando la storia del ricevitore, cazzo, volevo dire una cosa anch'io e puntualmente mi è passata in mente. Vabbè dai, rilascio il mic a Gianni, avanti. Per quanto riguarda le radio DAB, guarda, l'ha comprata Natalino da poco, e le sente le radio DAB, vero Natalino? Sì, ce l'ho anch'io la radio DAB, e già si sente qualcosa. Aspetta, non confondiamo, cioè le radio DAB stanno trasmettendo però ancora non è attiva qua a Sassari, perché tu senti, anche io sento, la radio DAB ce l'ho anche io, però trasmettere, siccome il DAB trasmettono su frequenze molto più alte, adesso non mi ricordo se sono 1200 o no, 1100, adesso non mi ricordo la frequenza esatta, tu l'ascolto con la radio DAB, ascolto le radio che te stanno trasmettendo, che ascoltiamo normalmente in analogico, però io sto parlando la trasmissione in digitale, ancora almeno sino a un mesetto fa non c'era, per cui non potete avere la sentita a Sassari, ma che non l'abbiamo fatta adesso in questi giorni, perché anche questo ricevitore ascolta in analogico, però il DAB dove ti appare il nome della canzone, l'emittente col televideo, che tu puoi vedere la programmazione e tutto sul display, ancora non era attiva, non esiste per oggi, mi dopo proprio per curiosità. Dovrebbe esserci Eugenio, ci dovrebbe essere, fatelo entrare, io sento passo passo. Sì, ciao Eugenio, ben sentito, dai, avanti Gianni e poi Vanni. Ciao Eugenio, ben sentito anche a te, dai, avanti Gianni. Ehi, ciao Eugenio, proprio, guarda, ti ho nominato proprio tre 30 secondi fa e ne sei uscito a Pizzo. Buonasera. Vicerai. Voglioia. Bene meda, bene meda. E beh, hai parlato bene, roba buona. Oggi, ma dimmi una cosa, ma per sbaglio quando stai scaricando un camion di mascherine non puoi passare vicino all'officina mia, me ne scarichi un po'. Mica è una vergogna, cacchio, che non si trovano mascherine a Sassari, siamo più di una settimana, non ci sono mascherine, tutti venduti, non c'è niente, che cacchio ne fanno delle mascherine? Cioè dice, c'è una ditta che sta producendo 500.000 al giorno, è possibile che tutte le mascherine di tutte le farmacie di tutti così siano scomparse a Sassari? E ma Montone se stanno vendendo le mascherine? Chi sta vendendo giù? E ma Montone! Io Gianni l'altro, i due Gianni, insomma, cioè Gianni Sirio, beh, chiamiamolo così, così almeno si distingue dall'altro Gianni. Lei non lo è, il mamutone, se poi mi segnano le mascherine, sono belle, anche grandi, proprio di quelle belle, pesanti. Sì, pisate già, sono pisate. Ciao Giù, ben sentito, buonasera. Ok, una domanda Vanni, ma tu hai collaborato con una televisione privata o sbaglio per un periodo? Vanni? Mi sono spostato in bagno, cosa mi sono perso? Ho detto una domanda al volo, così non me lo polemizziamo. Tu hai collaborato con una televisione privata qua di Sassari o sbaglio? Positivo, positivo, 18 anni, 18 anni di televisione locale. Sì sì, ho fatto la mia parte, dai. Come cameraman, così è. Diciamo che facevo di tutto, dai. Facevo tutto, dai, lì dentro, tranne il giornalaio. Però per il resto, riprese, montaggio, regia video, un sacco di cose. Messa in onda, di tutto, tecnico, aggiustavo le cose, se si scassava qualcosa, quindi un po' di tutto, dai. Via, ok, dai, complimenti. Ok, oggi cosa ti è successo? Avanti tu. No, se tu ti stavi lamentando, cosa ti è successo? Infatti per quello, naturalmente scherzo, dai. Ah, così, dai, meglio stare allegri in queste giornate, dai. E beh, musica non le state mettendo pure, alle 18 dice che c'è l'orario del coso, flash mob, come si chiama? Vabbè, ma la sai l'ultima, ho letto su internet, c'era il video di questo della SIA e ha detto che stanno provvedendo a mettere le multe a tutti quelli che hanno cantato nel balcone, che hanno individuato. No, ma non scherzando, vabbè, quello di cantare non li puoi mettere, tu puoi cantare quello che vuoi. Uno ha messo le altoparlanti fuori con le casse e gli hanno messo la contravvenzione perché non ha rispettato i diritti d'autore, ma chi ti sono imbecilli? Cioè, gente che fa così vuole presa, è come quelli che hanno messo la contravvenzione perché c'erano le macchine nei parcheggi a pagamento e non si poteva uscire, ho detto, ma stai scherzando? E come faccio a uscire? A spostare se non posso uscire? Infatti gli hanno fatto lo scandalo, una brutta figura, di cui non qua a Sassari, nella zona del Milanese è successo, hanno messo le multe, infatti hanno fatto il video, una vergogna nazionale. Quegli ausiliari del traffico. Gente ignorante, quelle persone lì, io dico lasciamo, infatti li mettono cani e pulci per fare questo tipo di lavoro, un po' di elasticità mentale, io dico, non dico altro, dai. Ok, avanti Natalino e poi facciamo girare gli altri, vai Natalino. Ma io ne approfitto perché devo fare quelle tirate, ci sentiamo alle prossime. Saluto tutti quelli che sono all'ascolto e me ne vado. Ciao Natale, ben sentito, avanti Gianni. Ciao Natale, dai, buona carica, quando la fai, ci sentiamo domani. Avanti a chi tocca, Eugenio. Vanni, vai tu. Eia, ciao Natalino, buona carica, come dicono giù al sud, a Zibiri, avanti Robert. Eia, ok, e oggi visto che tu sei del mestiere, ho letto, anzi sentito, che hanno chiuso il porto di Genova. Cosa vuol dire chiudere il porto di Genova? Anche le merci? Il mare è buco. Vabbè, quello è meglio che a noi non ci servano, ma cacchio su, ce ne vogliono un bel, a cosa? A Bergamo, non so quanti ne stanno morendo al giorno, un'ottantina al giorno ne muoiono, poverini. Vabbè, cambiamo argomento, non si scherza su questo. No, l'importante è che arrivino gli alimenti, perché la preoccupazione mia non è tanto per il coronavirus di per sé, la preoccupazione è che non troviamo roba da mangiare, perché qua è un problema in Sardegna, noi siamo completamente isolati da quel punto di vista. La produzione locale si va bene a mangiarti il pompaggio di riso. Benissimo, non ho capito. Cosa vuol dire metterci, ti spiega, se non ho capito. Non sapevo, si chiama seguito, certo che lo faccio, tutto naturalmente dipende dal materiale che ci metti, ci sono. Ma per che cosa? Per serbatoi di macchine o per fare la macchina? Ah, per la moto sì, no, perché qualcuno l'ha fatto sulla macchina, io sulla macchina lo sconsiglio assolutamente, cioè, non so se l'avete visto, quel, come si chiama, quel maggiolone New Beetle della cosa, della Volkswagen, è fatto così, ma Mari è bella vedersi, ma se ti toccano la macchina ti devi riverniciare tutta la macchina, perché fatto, si chiamano colori metallescenti quelli. Ho parlato, gliel'ha fatto un amico, uno che lavorava da noi in officina, no, un bel lavoro, però è uno spreco, così abbiamo fatto una macchina noi, triplottratto, una, ce n'è una sola a Sassari di quelle lì, una Citroen C5 lunga, un station wagon, un colore particolare per l'acero, se tu lo vedi questo quando c'è il sole addosso ti fa male agli occhi, cioè proprio ti accecca, non lo puoi guardare col sole, e poi diventa azzurro, tende dal, sono quei colori tipo la perla, il madreperla, quando apri una conchiglia, parte dall'argento fino ad arrivare a un azzurro chiarissimo, ma ti fa male agli occhi quando, ma è bellissimo perché cambia colore questo qua, se lo vedi al buio diciamo sembra grigio, poi lo vedi alla luce del sole diventa argento e poi azzurrino chiaro chiaro, è un colore speciale. No, aspetta, ve lo spiego, dai, così al volo. Vabbè, allora diciamo, i termini ce ne sono tanti, però si chiamano colori metallescenti o perlacei. I colori metallizzati, volgarmente che li chiamate metallizzati, volgarmente, metallizzati è una cosa che ci mette del metallo, polvere di alluminio, tutto a grana uguale, nel senso la polvere è tutta di grana, che può essere grana grossa, grana fine o grana media. Per cui è una polvere, come puoi prendere, prendi la farina, la culi ed è sempre quella lì, e la spruzzi, ci sono diverse grane, c'è l'argento per dire grana grossa, grana fine, chi ti dà quell'effetto metallico è l'alluminio, per dire nell'argento tu devi fare un rosso metallizzato, prendi il rosso e ci aggiungi l'alluminio, e l'alluminio esiste di diverse grane, però sono tutte di grana uguale. Mentre i colori perlacei o metallescenti usano della mica, la mica sono delle scaglie, per cui tu le particelle non sono tutte uguali, e trovi una quadrata, una rettangolare, una esagonale, cioè parliamo di diverse misure, diverse forme, per cui ogni pezzettino di queste particelle fanno un effetto perlaceo o metallescente, cioè tipo che ci sia uno specchio. Poi di queste qui esistono tante varianti, perché tu, per dire, esiste la mica per dire dello stesso unico colore, poi esistono le particelle policromatiche, per dire che tu, per dire, ci puoi mischiare la particella rossa con quella verde, con quella gialla, e ti fanno questi effetti tipo le macchine dell'autoscontro, non so se le avete visto, o della giostra dei bambini. Certo, ma costa una barca di soldi il materiale, anche se ho visto che i cinesi lo stanno vendendo. Noi un'ampolletta di quelle lì che lo devi mischiare alle vernici, ma io sto parlando, se non 15, da quando esiste l'euro, una quindicina d'anni, dai, un'ampolletta tipo lo smalto per le unghie, un po' più grande, l'avevamo pagata allora 90 euro, ma 90 euro a noi, se va a comprare ti costa 150 euro una cosa, costava. Adesso poi ho visto dai cinesi vendono queste perline che se le mettono le donne addosso per farsi il viso nel trucco, non so se l'avete mai visto, però non è che ti metti tu a fare una cosa molto ma molto delicata, perché vuole fatto su triplottratto, per dire, se gli dai una base chiara, normalmente questo lo fai su una base chiara, non su una base scura, perché se no non vedi niente, fai su una base chiara e prendi queste particelle qua, devi usare delle pistole adatte, nel senso devi mischiarle con dei prodotti, diciamo non è che la puoi sparare così la particella, se no ti esce una cagata, devi mischiarla con dei, chiamiamoli, dei additivi, delle sostanze liquide, in modo modo che sia solubile, non solubile, si integri con questa sostanza qua, la spari in modo che sia tutto uniforme, perché se tu ti metti a metterla in una pozzola piccolina, diciamo, come molti fanno, la sputi e ti stai sparando tipo sabbia sopra, adesso è una porcheria. Devi utilizzarla con dei prodotti adatti per fare questo lavoro, e non è semplice, per cui il lavoro costerebbe abbastanza. Ma non è neanche così, perché se tu lo mischi col trasparente, poi siccome c'hanno anche uno spessore queste cose qua, poi vai a lucidare e ti trovi una parte opaca, una parte... Io non l'ho mai fatto, il trasparente lo dai come copertura, come ultimo strato, per dire dai, la base per dire, devi fare un argento, dai l'argento, dopodiché ti dai questo prodotto qua mischiato con una sostanza specifica per distribuirlo, e dopodiché si dà il trasparente sopra. Molti lo mischiano col trasparente, ma l'abbiamo fatto anche noi, ma non è la stessa cosa. Perché è come fai una gelatina e ci metti in mezzo della roba in mezzo, non è la stessa cosa, non fa lo stesso effetto. Sì, assolutamente, vengono da tutte le parti, restauri, non so, no, a me non mi piace parlare in radio queste cose perché sembra che mi stia vantando, non sono tipo da cosa, però se tu vai ai raduni, alle cose, la maggior parte le abbiamo fatte noi, le moto almeno il 70-80% sono fatte da noi, poi le macchine qualcuna ce l'abbiamo fatta anche noi, ne stiamo facendo anche lavori impegnativi. No, vabbè, se non dice questo di stare a parlare di queste cose, il lavoro lasciamo da parte, poi chi vuol venire a conoscermi viene da me, sa dove sono, e si fa una chiacchierata, gli facciamo vedere tutti i lavori che abbiamo fatto, così si rende conto di quello che stiamo parlando, perché io posso dire tante cose, tante fesserie. Quello che parlo normalmente lo dico con cognizione di causa. Vabbè, qua in radio non lo diciamo, dai. Comunque zona, non dico proprio lì, vicino a lì, dai, in quelle zone di lì, dai. Se sai il mio cognome, sai dove sono, però non mi va a dire cose personali in radio. No, poi se vuoi vedermi non ci sono problemi, qualcuno il mio numero, se c'è Claudio o Natalino, ce l'hanno forse anche Gianni, non so se ce l'ha, Luca Del Monte ce l'ha, il mio Giulio ce l'ha il mio numero, te lo fai dare, mi chiami e ci mettiamo d'accordo, e ci parliamo per telefono. Sì, se c'è il mio cognome non c'è da sbagliare, anche se c'è il mio cugino, però lui è un po' più da un'altra parte, dai. Quella storica siamo noi, dai, con quel cognome siamo noi. Ok, stiamo monopolizzando, io direi di far riprendere al nostro amico DJ, cameraman, cosa cavolo hai fatto? Di tutto hai fatto. Vanni, avanti tu. Eia, eia. Sì, stavo riguardo alla storia dei tipi che si mettono sul balcone o in terrazzi, cioè anche io sottoscrivo veramente, cioè, tristezza infinita, cioè proprio da sia gli ausiliari che questi adesso cazzo che si mettono a fare verbali, cioè in un contesto, in un momento del genere, cioè veramente, cioè, siete di misera, sono dei pidocchi, cazzo, con tutto il rispetto per i pidocchi. Cioè, voglio dire, vabbè, niente, dai, lasciamo perdere, avanti già. Usurai è la parola giusta. Oh, scusate un attimo, c'è Giulio in stand-by. Avanti Giulio, mi siamo dimenticati di te, scusa. Ah, non ve siete ricordati che ci sono. Allora, facciamo così. E in quel caso lì, siccome c'è Francesco De Muro, no? Quel cantante porto torrese, tenore di livello mondiale, perché è di livello mondiale, anzi, ho letto qualcosa anche sul giornale che addirittura è il più bravo del mondo. Questo poi è da vedere, perché in quanto ha fatto di canzoni, ognuno ha la sua opinione, i suoi gusti, per cui non si può dire che uno sia più bravo di un altro. Però, a parte questo, volevo dire, e in questi giorni Francesco De Muro a Porto Torres si è messo alla finestra e ha cantato Mamma Maria e qualche altra canzone. Allora cosa dovrebbero fare a lui? Anche a lui denuncia. No, allora Eugenio, la cosa non è una pechina. Allora, tu puoi cantare, te lo dico perché lo so di questo fatto della pianta, tu puoi cantare qualunque cosa senza utilizzare basi musicali, tipo, a meno che non ti metti tu a suonarla tu con le tue mani la musica, però se tu c'hai una base musicale, la metti la base musicale all'altoparlante dove l'ascoltano altre persone, teoricamente dovresti pagare la sera, te lo dico per certezza perché io ne ho fatto più di una di utilizzi di queste cose qua. Purtroppo ci sono i protagonisti che vogliono fare i tubi per farsi vedere, ho sentito che hanno messo qualche anno fa una multa a una parrucchia perché hanno fatto una festa, secondo loro c'era troppa gente, eccetera eccetera. Vabbè, non entriamo in merito, io dico solo, capendo il momento è meglio darsi una calmata a tutti quanti ed evitare queste fesserie. Poi il lavoro loro è controllare, ma controlliamo le cose importanti, non queste cose qua. Ok, avanti Vanni e poi Giulio, Gianni e Natalino, no Natalino è andato via, scusa, avanti Vanni. Ehi, sei qua, ti potrei raccontare diversi aneddoti, visto che insomma, però adesso un po' me, adesso mi sono fermato, però tempo addietro ne ho viste di tutti i colori, quindi va, meglio che mica gli mudo, dai, perché sennò ce ne sarebbero episodi da raccontare. Sì, vabbè, ti ripeto, trovo un comportamento, un atteggiamento di una tristezza infinita. Sì, sì, giustamente, praticamente secondo determinate regole e norme, la diffusione di materiale coperta da copyright praticamente senza nessuna autorizzazione è punita con varie ammende e multe. Ed è così, vabbè, comunque. Già avremo modo di ballare tra un po', dai, quindi io ce l'ho tutta l'attrezzatura non qua disponibile, se no un pensierino ce l'avrei fatto anch'io. Avanti già. Sì, poi ho visto che da un po' di tempo a questa parte si usa di nuovo fare le serenate. Io una notte ho sentito cantare, ma chi sta cantando? Mi sono affacciato alla finestra e c'era la tipa affacciata al balcone e lo sposo che gli cantava ti sposerò perché na na na na. Allora anche quelli molto. Oh già, io ne manco se mi bug una cosa del genere. Lo so, anch'io sono vergognoso, non l'avrei mai fatto, però è bello, perché poi alla fine lei è scesa e si sono baciati, hanno aperto lo sfumante, tutti nella strada, però l'hanno fatto il via amore, sono proprio sotto casa. Ti hanno gridato tutti giù, e lei è scesa giù, hanno brindato insieme, poi si sono baciati e cosa, e hanno applaudito tutti quanti, c'è la musica a tutto volume, ma avevano un impianto robe che era allucinante, rimbombava in tutta la zona. Vabbè, comunque adesso si sta usando di nuovo, diciamo che nel napoletano in campagna si è sempre usato, ma qua è una cosa nuova per me vederlo. È simpatico, dai, ho visto che era abbastanza bello, poi hanno organizzato tutto molto bene e hanno tirato i fiori eccetera eccetera, ma hanno fatto un bello spettacolo, hanno messo addirittura, ci avevano la lampada per illuminare, avevano un sacco di roba, era un furgone e tutto era, l'attrezzatura è tutto su pick up, con casse, lampade, tutto qua. E poi dopo una settimana di viaggio di notte si separano. Robe, purtroppo. Quella è la ragione. Vabbè. Tutti ci metterebbero, tutti pensano di arrivare alla vecchiaia, poi la vita gira. Già lo so, no, ma poi ci sono quelli, adesso c'è la moda, cacco, quando le vedo queste cose, una tristezza, già io quando vedo quei programmi C'è posta per te, quelle di Maria De Filippi, io giro subito a chi mi viene la nausea a vederle, quelli che ci fanno per dire se allo stadio si ferma qualcosa, mi arriva questo con l'anello, va su in ginocchia, lo fanno militari, poliziotti, calciatori, di tutti i generi, cacchio, solo per cose, io le cose mie personali, forse perché sono riservato di natura, me le ho sempre tenute per me, mai messo in mostra con nessuno, questa gente, ho visto anche, non per dire niente, con i gay che possono fare i fatti loro, sono liberi di fare quello che vogliono, adesso vedi anche i tipi, le coppie gay vanno con l'anellino, si presentano, ti chiedono di sposare in aereo dal coso all'altoparlante, quello e quell'altro, io dico le cose personali devono essere personali, non pubbliche. Vabbè, c'è chi la pensa diversamente, Robe, anche io sono come te, però c'è gente che gli piace mostrarsi, narrare tutti ciò che pensano, ciò che hanno dentro, sempre che siano sinceri, perché molte volte non c'è manco sincerità in certe cose. Vabbè, purtroppo la gente non c'è più la cultura di quando c'era mio babbo e mia mamma, che i matrimoni raramente si sfasciavano, adesso è diventata normalità. E tra l'altro ho visto le statistiche, la Sardegna è il numero uno in Italia come numero di matrimoni e separazioni, cioè non di divorzi, come separazioni, e divorzi no, ancora no, però come separazioni la Sardegna pro capite per abitante superiore a qualunque regione italiana. Cioè abbiamo un record delle pizzerie italiane, una ogni 400 abitanti, ogni 300 abitanti, e più abbiamo il record delle separazioni per abitanti e delle pecore. Questi sono i bei record. Vabbè. Purtroppo la vita continua, va avanti anche se succede, cosa devi fare? Si cerca di andare avanti, Roberto. Ehi, ok, avanti Giulio Dollaro, che ci racconterà perché si chiama Dollaro. Ok. No, io di questi problemi non ne ho, per cui non è che ci metto lingua. Ognuno poi fare quello che vuole, quello che crede. Giustamente se una coppia poi non va più d'accordo, è giusto che si separino, perché è stare sempre come carregato in casa non va bene. Dunque, poi ognuno va bene a modo suo ed è giusto così. Viva la democrazia, io la penso così. Cosa volete che vi dica? Sì, una volta magari diciamo che perlomeno quelli dell'età mia, dai, almeno io parlo della mia generazione, diciamo che erano più assidui, rimanevano di più, o sposati fino alla fine della vita praticamente. Poi invece tutto è cambiato, anzi molta gente non si sposa nemmeno, vanno a convivere e basta, se va più ugualmente bene, perché no? È interessante andare d'accordo ugualmente, tutto sommato poi alla fine è un pezzo di carta perché siete in comune, però al cuore lo si comanda. Se ci sei, ci sei, se non ci sei, pazienza, ecco qual è il discorso. Vabbè, dai, avanti e uccidi. Sai cos'è, secondo me, che prima c'era più sopportazione, i miei per dire erano molto attaccati, dormivano addirittura per mano, fatti il conto, se ci va uno ci va l'altro, se non ci va uno non ci va l'altro, mio padre aspettava che tornasse mio padre dalla finestra, poi andava alla porta, gli dava il bacino, gli chiedeva come è andata la giornata, erano tutti, erano molto attaccati, e mio padre diceva sempre questo, l'amore non può durare in eterno, però ci vuole complicità, rispetto e sopportazione soprattutto. E invece adesso sopportazione non ce n'è più, perché la donna ha mille pretese, ha mille cose e non si riesce più ad andare d'accordo per quello. E Eugenio, beato te, dai, beato te che ti hai trovato la santa, che hai trovato la donna ideale. Io ti auguro di averla tutta la vita con te, sino a morte non vi separi. E oggi, scusala, ma è vicino a te questo complimento, sto scherzando naturalmente, vicino a te è tua moglie. Ah, fai che sino oggi non si mangia. Sapete cos'è? Oggi col fatto che la donna lavora eccetera, no? E giustamente è un grande aiuto per la famiglia, questo non ci sono dubbi. È importantissimo che una donna lavori e poi contribuisca anche al sostentamento della famiglia. Però io ho sempre pensato che dal primo momento che una donna diventa autonoma sotto l'aspetto contributivo della famiglia, il matrimonio può anche traballare in maniera abbastanza evidente. Perché? Perché la donna diventa autoritaria, perché se invece lavora solo il marito, sa che il sostentamento è quello e lui in tutto sommato in pratica rimane, non dico sottoposta, però più attaccata all'amore della famiglia stessa. Per cui è più difficile separarsi, io la penso così. Vai Gianni. No, non è così. Secondo me non è così, perché ci sono donne che anche senza il lavoro si separano lo stesso, non è quello. È che diciamo che la donna avesse delle pretese allucinanti. Io ho sentito amici lamentarsi che la moglie vuole che lavino i piatti dopo che te l'hanno stanchi dalla voce, e lavali tu i piatti, cavolo, sto tornando al lavoro, lascia un attimo di trigo, no? E niente, si bisticcia per fesserie, dice, si bisticcia per fesserie, e va a finire, dice che andiamo a finire anche noi che ci separiamo, ha detto questa amica. E purtroppo adesso hanno delle pretese allucinanti. Prima diciamo che quello che diceva il marito era sacrosanto, si andava insieme, si educavano i figli insieme, tutto insieme si faceva. Adesso ti contraddicono ogni cosa, poi lascia perdere, non è che guardano se c'è gente davanti, ti contraddico anche davanti agli altri. Oh signori, interrompo un attimo, per me è finita oggi, dai, vi devo lasciare, ci sentiamo alle prossimine, è stato un piacere ascoltarvi e dialogare con tutti voi. Saluto a tutti, QRT da parte mia, ciao ciao. Ciao Robe, buona carica. Ok, ciao Robe, alle prossime, anche io chiudo, dai. Ciao a tutti, grazie per la chiacchieratina, ci sentiamo domani. Ciao Gianni, l'altro Gianni, Eugenio, Natalino che sicuramente ha l'ascolto, e poi chi c'era? Ah, e Roberto chiaramente. Ciao a tutti, chiudo, riprendi pure Eugenio. Ciao Roberto, ciao Giulio, buona serata e buona carica. Da questa parte, dai, avanti già. Oh, Roberto, Roberto, come hai sentito? E buona serata anche a te. Avanti, Eugenio, di nuovo riprendi tu, prendi tu, e anch'io mi trattengo poco perché vado a vedere il telegiornale, dai. No. Anche io faccio. Anche io faccio qualche altro passaggio e poi stacco anch'io per stasera, dai. Quindi anche stasera abbiamo dato e abbiamo fatto un salotto, come dice Giulio. E va bene così, dai, avanti già. Cava, cava, dai, dai, io dai, vi saluto. Ve ne vado a vedere il telegiornale, se no poi vi perdo qualcosa. Ogni tanto giambani, si cose, goia. Adesso abbiamo stampato tutti i fogli per i permessi, aveva stampati da Tarino, allora tocca a Dora farli tutti nuovi e che sono usciti Dora nuovi. Ciao bello, ciao, buonanotte a tutti, dai, ciao. Ciao ragazzi, dai, a domani, buona carica e buonanotte, dai, a domani, ciao.